certo mesi avanti e rimanevano. Giulio, ci sei? Giulio, ci sei? Sono nella partita. Nella partita? Io sono rientrato da poco, adesso è dal telefono, vero? Con Roberto. Era a Porto Torre, se la mia cogliata, sono rientrato da poco. Subito dopo mi ha squillato il telefono. Adesso sono qua. Vabbè, qua, dalla partita, guarda. Non ce ne sono problemi. Sì, vabbè, perché tu avrai due. 7-0-0, Cagliari Atalanta, quella che poi giocherà con la Juventus. Una gran bella partita. Ancora sono 0-0, sicuramente andranno ai supplementari. Ok, dai, ci sentiamo dopo, giù. Ok, d'accordo, forse più tardi, se si libera, entra anche Roberto Quadrato. Ehi, ehi. Ormai bisogna attraversare. Perché poi c'è la Roma, capito? Non è finita. Alle 8:30 c'è anche la Roma. Un'occasione per... Va bene, dai. A dopo allora, se coincide, se ci sono, perché poi devo portare il cane, già lo sai. Va bene. Ok, ciao, a dopo, dentro mezzo.